Siamo con l'attore Daniele Miglio per parlare di tre eventi a Baracca e Burattini a Roma dall'11 al 13 di maggio. Daniele, ben trovato. Federico, buongiorno. Partiamo dall'inizio, parlaci di Baracca e Burattini. Allora, guarda, Baracca e Burattini è uno spazio aperto al quadraro, via dei Furi 25-27, che prende l'eredità di uno spazio che c'è stato per tanti anni, che si chiamava Via Libera, Associazione Culturale Via Libera. La situazione esiste ancora, ma lo spazio non c'è da più. E ce lo siamo presi noi, io già collaboravo con Via Libera, chiaramente. E che cosa facciamo? Facciamo laboratori teatrali per ragazzi, cioè attività pomeridiane sono indirizzate tutte per i ragazzi e i bambini. Mentre ogni tanto ci sbizzarriamo pure in qualche serata, facciamo qualche evento per gli adulti. Siamo sul quartiere, proponiamo cultura, luogo d'incontro, siamo tra i partecipanti, i promotori della memoria storica del quadraro, per quanto riguarda il rastrellamento del quadraro del 44. Cerchiamo di stare sul territorio, ci proviamo, eh. Sì. Allora, in realtà sono due eventi, perché uno si svolge la mattina. Ce li presenti un attimo? Allora, domani sera, che è venerdì 11, siamo in scena io e Dario Benedetti, che è un musicista bravissimo, lui, io sto lì, sto accanto così. Sì. E facciamo lo spettacolo si chiama Ieri, Oggi, Romani. Praticamente sono dei brani scritti da Simone Orlando, e dove raccontiamo un po' l'artista, la figura di questo artista nel passato, e quindi raccontiamo aneddoti, storie, racconti di una Roma dell'Ottocento, diciamo, fino all'Ottocento, e l'artista oggi. Per esempio, abbiamo un brano che parla adesso del mestiere del musicista a Roma, quello che va per le serate nei locali, che trova un mondo dove c'è questa figura, che è la figura del localaro, no? La prima cosa che ti chiedi, mi interessa che fai, che suoni, chi sei, ma te fa, ma quanta gente mi portate? Quindi è un po' la vita di questo artista. E poi altre piccole storie romane, ecco. Questo venerdì sera tocchiamo, che ne so, il periodo della guerra, Roma dell'Ottocento, i giorni nostri, insomma, un percorso un po' di una Roma che è stata e che è, sempre in maniera simpatica, per farti risare. Tra lo ieri e l'oggi. Ieri, oggi e domani. Questo è venerdì sera. Poi sabato sera invece abbiamo Daniele Parisi e Luca Valerio D'Amico. È un'idea di Luca Valerio D'Amico. Loro praticamente sono quest'artista che fa arte figurativa, opere figurative in scena, e durante questa opera c'è Daniele Parisi che con la sua voce racconta delle cose, insomma, fa una performance vocale, ecco, si chiama così. Daniele Parisi, grande artista, grande attore, non so se lo conosci, sicuramente. Questo è il sabato sera alle 11, sempre alle 21, sia venerdì 11 che sabato 12 alle ore 21 a Baracca e Burattini. Mentre la mattina di sabato abbiamo queste narrazioni, che casualmente hanno lo stesso titolo dello spettacolo della sera, si chiamano tutte Tracce, sia quello del sabato sera che quello delle narrazioni la mattina. È un percorso, giriamo per il quadraro. E andremo al Monte del Granato, dove c'è il mausoleo dell'imperatore bambino. È un percorso che parla del Papatosto e dell'Acquedotto Felice. E poi abbiamo sempre, chiaramente, stando al quadraro, non si può evitare di fare un percorso sulle strade e raccontare i fatti del 44, insomma. Questo è il nostro fine settimana. Le attività le pubblicizzate di settimana in settimana? Sì, praticamente sì. E non ci sono dei giorni fissi di eventi? Guarda, tendenzialmente, a parte maggio, che siamo un po' pieni, noi facciamo ogni 2 settimane un evento per adulti la sera, e ogni 2 settimane un evento per ragazzi. Tant'è che sabato pomeriggio ci sarà pure uno spettacolo per ragazzi, è sold out, è strapieno, viene Capitan Calamaio sabato Che pomeriggio. però non sono 2 giorni fissi, questi quindicinali, non è un giorno fisso della settimana, può variare. Guarda, in realtà sono abbastanza fissi, nel senso che la prima settimana è quella, il primo weekend del mese è dedicato ai ragazzi. Il Ok, secondo comunque nel weekend, fine settimana. sì, sempre nel fine settimana, sì, solo nel fine settimana. Senti, i riferimenti web, vedo che c'è la pagina Facebook, La c'è pagina anche... Facebook, Baracca e Burattini. Funziona quella. Funziona Benissimo. quella. Allora, ricordiamo gli Andiamo appuntamenti. a L'11 maggio, ieri, oggi e Romani alle ore 21. Il 12 maggio alle 10:30, narrazioni sulle tracce del territorio. E la sera alle 21, Luca Valerio D'Amico e Daniele Parisi in tracce. Daniele, un abbraccio, a risentirci presto a questo punto. Federico, è stato un piacere come al solito. Volevo soltanto ricordare che non l'ho detto, l'appuntamento per il percorso Sì. è alle 10:30 proprio a Baracca e Burattini, si parte da là, via dei Furi 25. Perfetto. A presto, Daniele. Grazie Federico. Ciao, ciao, ciao.